Si compra una bella macchina, bisogna metterci la benzina dentro, perché se non ci mette la benzina, se non ci metti i soldi nella macchina, la macchina non va. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Giorgio De Luca è tornato felice dalla gita a Genova al Salone Nautico, Alvise Falzone in redazione. Pierluigi Pardo, buongiorno. Anch'io sono tornato felice, come va? Benissimo. Ha ragione Gattuso, se prende una bella macchina ci metti la benzina. La macchina non va, no? Certo. In questa sua tormentata relazione con il Pisa. Usciamo dalla pausa della nazionale, ci tuffiamo in un triplo turno di campionato. Domani già in campo la Juventus a Palermo. Tra l'altro ha parlato Allegri, che tra poco sentiremo. Lascerà fuori Dybala, giocherà Mandzukic con Higuain. Non mi sembra esattamente la coppia dei sogni da un punto di vista tattico, però un giusto turnover, quello di cui viene accusato Sarri, cioè di non farlo, di lasciare un sacco di soldi spesi sul mercato dal Napoli in panchina, ma di questo parleremo più tardi. Intanto sentiamo insieme cosa ha detto Allegri a proposito di Higuain e della coppia titolare domani sera. Se vinciamo, che giochi Higuain o che non giochi Higuain, ne frega niente a nessuno. Se perdiamo è normale, se non gioca Higuain deve giocare Higuain, se non gioca Mandzukic deve giocare Mandzukic, se non gioca Chiellini deve giocare Chiellini. È così, ma è normale che sia così, quindi ci sono abituato. Devo sperare che quando gioca uno si vinca, cioè devo sperare che si vinca sempre, così almeno le polemiche non ci sono. Io farei giocare sempre Pablito Rossi, che oggi compie gli anni e cui dopo renderemo omaggio in un'intervista che ha realizzato Dario Ricci, una lunga intervista che andrà in onda poi ad Olimpia, ne sentiremo un estratto. Però hai sentito Pierluigi Pardo, hai sentito Allegri cosa ha detto? Torto non ha, no? 800240024. Detto questo è chiaro che lasciare Pjanic fuori col Siviglia e lasciare Higuain, ma per lui lo sa benissimo, lui lo sa benissimo. Lasciare Pjanic fuori col Siviglia e lasciare Higuain fuori con l'Inter inizialmente lo espongono in caso di risultato certo negativo a delle critiche che poi in certi casi sono assolutamente assurde, nel senso che poi non è che l'assenza di Higuain abbia inciso sulla partita contro l'Inter, chiaro, però perlomeno manca la controprova, no, di questo. Posso dirti una cosa? Allegri comunque si sente abbastanza forte per non nascondersi dietro al paravento delle formazioni, delle scelte populistiche, dei giocatori che tutti vorrebbero in campo. Questo è un segno di forza, secondo me. Ma certo è un segno di forza, ma senza alcun dubbio, ma lui è forte. Cioè, è un segno di forza perché lui è forte, perché ha dimostrato delle cose in questi anni, oltre ad averle dimostrato in tutta la sua carriera. Quindi secondo me, insomma, l'abbiamo detto mille volte, c'è un po' di eccesso di critica nei suoi confronti in relazione a quello che ha vinto nella sua carriera, che è molto, e considerata anche l'età complessivamente giovane per un allenatore. Però insomma l'ha detto lui, è abituato da sempre alle pressioni, sta benissimo, insomma, quindi. Però oggettivamente lui nel non schierare Higuain contro l'Inter una cosa tra virgolette strana l'ha fatta, cioè no, chiaro, l'ha fatta e ha preso un rischio, avrà avuto i suoi motivi, certamente non è masochista, certamente non è pazzo, e quindi amen. Però lo sapeva benissimo ma questo non vale solo per lui, vale per tutti, anche per bravo, cioè se davvero ha detto domenica non schiera Icardi e l'Inter non fa il risultato, è ovvio che la domanda gliela fanno, no? Cioè, sì, il discorso è che poi vale soprattutto per le squadre che hanno la Champions League che preme. Siamo in un momento complicato in cui c'è stato questo falso avvio di stagione, come io continuo a definirlo, e poi si è tornati a sprombattuto tra campionato e coppe. È anche normale dare un'occhiata ai giocatori e fare delle valutazioni. Ti propongo un altro argomento, riguarda appunto l'Inter che tu ora hai citato. Tronchetti Provera, che è insomma anima storica dell'interismo, che ha parlato di De Boer e di Icardi, due invece ai quali le cose ultimamente vanno abbastanza bene. De Boer è una persona seria che sta facendo bene il suo lavoro, poi il campionato è lungo. Considero Icardi un grande campione, secondo me, il più bravo centravanti che ci sia oggi al mondo, ma questa è una mia opinione. Quello che sta succedendo quest'anno è che sta diventando il vero leader della squadra, il vero capitano. Questo è la parte entusiasmante di questo inizio di stagione di Icardi, perché la passione che lui ci sta mettendo trascina la squadra. Continuo a pensare che l'anno scorso per Icardi quella fascia sia stata un problema, magari inconsapevole, inconscio, un peso eccessivo per lui in una stagione che non è andata bene, in una squadra che non giocava bene per lui. Adesso tutto sembra girare per il verso giusto, il sole è arrivato e Icardi sta diventando una superstar del gol. Sì. No, Icardi sta diventando... Non sapevo se dovevi lanciare qualcosa. Icardi è nel momento, lo diceva ieri Beppe Bergomi, e credo che sia ampiamente condivisibile, nel momento migliore della sua carriera, il momento più compiuto, il momento nel quale, oltre a fare gol, cosa che ha fatto per esempio 2 anni fa con il titolo di capocannoniere a pari merito con Toni, dà la sensazione di potersi prendere per mano la squadra. L'Inter ha fatto, se non sbaglio, 7 gol fino a questo momento di stagione, 6 l'ha fatti lui. Insomma, basta questo per capire e per rendersi conto dell'incidenza, dell'importanza, della centralità di questo giocatore. Ed è una delle cose che in ogni caso devono essere riconosciute a De Boer, nel senso che adesso poi chiaramente noi siamo schizofrenici nei giudizi. Bravo, una esatto, settimana fa a quest'ora esatto. C'era, oggi è venerdì, quindi sì, esattamente una settimana fa c'era quel titolo della Gazzetta e c'era tutto il processo all'Inter, però sono successe delle cose nel frattempo, insomma, non è che no, il famoso calcio liquido è liquido perché tutto può cambiare da una partita all'altra, e sta cambiando nel caso dell'Inter, poi è ancora più liquido perché chiaramente la differenza fra una prestazione e l'altra è enorme. La sensazione è quella di un percorso positivo, di una crescita sicuramente. Senti, ho riconvocato un caro amico con cui avevamo lasciato alcuni discorsi in sospeso l'altro giorno, sì. E la cui schedina peraltro insieme a quella di Pardo ha fatto molto discutere, e a proposito oggi ve la riproponiamo, la schedina 800240024, se volete parlare con noi. Ripartiremo da questi scricchiolii che si avvertono. Tu eri insieme a Giorgio De Luca a Genova a vedere Genova-Napoli, hai commentato questa partita da 0-0, ci sono state queste polemiche di diverso segno tra Sarri e De Laurentiis sugli episodi arbitrali, poi ci sono voci secondo cui, dicevo prima, ma adesso che te li ho comprati perché non li fai giocare Maximovic 0 minuti, Giaccherini ha pure avuto problemi 0 minuti. Insomma, Sarri continua a seguire la sua strada, che è quella degli 11 titolari. Traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovic. Tutti convocati. Allora, due informazioni di servizio delle quali importerà poco. WhatsApp non mi funziona, comunque 349 non mi funziona, Giorgio Luca, 349-238-6666 è il vostro contatto per SMS e WhatsApp, se riprenderà, come spero tra poco, a funzionare. 800240024 è il numero verde. Seconda informazione di servizio: i ciupiti di Bobovieri hanno un po' stancato, quindi suggerirei di trovare qualche incipit diverso. Saluto Emiliano Mondonico. Ciao Mondo. Saluto WhatsApp, non sono capace di usarlo. Cos'è Bobovieri? È mio amico? Oh. WhatsApp. No, hai WhatsApp, Mondo? No, ma ho sentito dicevo, no, dicevo, sai, ogni tanto mi metto in questi rientri che sono molto carini. E c'è chi dice faccio col fiatone, altro che i ciupiti di Bobovieri. Io suggerisco pubblicamente di cambiare degli incipiti e di trovare qualcosa di diverso, perché è un po' che lo sentiamo. No, ha fatto molto scalpore la vostra schedina, tu e Di Pardo l'altro giorno, perché 3-3 finita, no, poi la rifacciamo. Senti, io non tirare indietro, non nascondere la mano dopo che hai lanciato il sasso. Io . Professionalmente ho dato le prime 4 in classifica, se ben vi ricordate. Sì, hai beccato il pareggio del Genoa, però è vero che avevi vedi fatto. Vedi che nasconde la mano. Ho cannato l'Inter. Che hai cannato l'Inter di brutto. Che giustamente Pardo si è accorto che nella classifica aveva 7 punti. Bravo, io bravo. Ho detto che pareggiavano e ne avevano 8. Perché dopo, ragionando un attimo, il giorno dopo, mi sembrava insomma, dare una sconfitta mi sembrava troppo, però va benissimo così, abbiamo fatto 3-3. Bravo Pardo, complimenti. Bravo, complimenti. Bravo, poi vediamo cosa fate a sto giro, perché io ve la rifaccio, perché facciamo sono subito, cattivo. Dai. Togliamoci sto peso. Ah, vuoi farla subito? Sì, dai, togliamoci sto peso. Subito? Ma sì, dai, sento ansia la prestazione. Ma dai, va bene, andiamo. Ma dai. Bisogna riflettere. Oh, ah, dai, facciamo la schedina. Io avevo la schedina, ma sai, la schedina deve sempre esserci 25. Sì. 24, Papa 24esimo, sì. Tu prova a immaginare una schedina. Senti Mondo, dove, se non la facciamo adesso la facciamo 24, dimmi. Ascoltami, se non la facciamo adesso la facciamo tra 5 minuti, quindi non è che cambia poi tanto. No, ma è il discorso del 24. Va bene, allora facciamo così, ti propongo prima, disubbidendo a Pardo, ti propongo prima questo argomento che mi interessa molto, con Sarri e De Laurentiis che dicono poi Pierluigi Pardo, che ha raccontato la partita, ha fatto la telecronaca della partita l'altro giorno a Genova, con il corollario degli episodi arbitrali e delle polemiche che ne sono uscite, anche interne. Beh, insomma, c'è questa aria di maretta, non dico di burrasca, ma di maretta, visto che Pardo ieri era al Salone Nautico insieme a De Luca, tra Sarri e De Laurentiis. Sentiamo. Mi farebbe piacere intervenisse la società dopo quello che si è visto a Pescara stasera. Io quando sbaglio, se sbaglio due partite vado a casa, e nelle ultime due trasferte entro di noi sono stati commessi tanti errori, quindi un minimo di giramento è chiaro che ce l'ho, e mi piacerebbe anche non parlarne più sinceramente, perché fare la figura di quello che si lamenta mi scoccia, quindi parliamo di calcio e stop. Sì, poi ha risposto De Laurentiis: gli arbitri fanno il loro dovere, zitti tutti e pedalare. Cosa speriamo, ne pensi, Mondo? Speriamo soprattutto che Sarri non dia retta a Maran, perché se io fossi Maran paragonerei Sarri a Guardiola. Mm. E mi piacerebbe così andare a vedere le squadre di Guardiola, tra virgolette. Se vi ricordate, l'allenatore del Genova gli ha detto così, e poi patatam. Bisogna sempre stare attenti. Ha già cominciato a fare la schedina, capito? Bisogna stare attenti a quelli che ti incensano, perché dopo c'è sempre dietro il papapam, ed è stato così. E allora no, bravo De Laurentiis, perché credimi, cioè pensare che la partita sia decisa dall'arbitro è pensare non male, malissimo. È chiaro che vedendo la partita la squadra, il Genova ha meritato ampiamente il pareggio, anzi ha rischiato anche qualcosa in più, come avevo sognato io di notte. Ma Mondo, questa partita qui secondo te insegna qualcosa a chi affronterà il Napoli? Premesso che il Napoli poteva vincere, gli episodi arbitrali eccetera, ma per esempio penso al pressing che c'è stato su Jorginho in fase di possesso di palla, è una partita didattica per chi dovrà affrontare il Napoli? Purtroppo le grandi squadre non perdono mai due partite di seguito, perciò penso che non c'è didattica, non c'è, sì, tu tatticamente li puoi aspettare, tatticamente puoi chiudere le diagonali, tatticamente puoi fare tutto quello che vuoi, però quando hai un attacco come quello del Napoli non c'è assolutamente rimedio, perché se non è Caio e Sempronio, ma qualcuno te la ficca sempre dentro. Sì, l'altra sera Caio e Sempronio erano assenti, quindi è finita, esatto. È finita in parità. Ti ringrazio. È finita in parità. ieri è intervenuto ai nostri microfoni Carletto Ancelotti con il complice Pardo, la signora Luisa, un giro strano, De Luca, una cosa che non ho capito. Però ad Ancelotti insomma ho esposto un mio vecchio pensiero, e cioè la Champions League tutti la vogliono, uno la piglia, tutti gli altri hanno fallito. Dichiarare l'obiettivo Champions League è il nostro obiettivo stagionale, secondo me è una sciocchezza. Ancelotti: ci sono tanti che la vogliono vincere, il sogno di tutti, e dopo bisogna vedere cosa succede quando arriva il momento cruciale. Vedo che il primo obiettivo è essere lì al momento cruciale, dopo si vede cosa succede. Mi sembra che non faccia una piega, no? Mondo. Ancelotti c'ha le lunghe ciglia. ed è come la signora delle lunghe ciglia, che tutti la vogliono e nessuno la piglia. E perciò bravo Ancelotti, è un bel momento, come fai a dire punto qui punto là, cioè, auguriamo di esserci lì, poi dopo, ma certo. poi dopo vediamo un po'. Penso che siano così frasi che è giusto dire per non illudere, perché se illudi puoi anche deludere dopo. Ma invece certo, certo, resta lì certo. Con sul ingiusto equilibrio. E allora penso che il futuro sarà sempre positivo. Ascolta al volo una dichiarazione di Allegri su un fatto, in conferenza stampa di oggi, poi andiamo con la schedina, lo prometto, però dichiarazione di Allegri di oggi: non conta tanto il modulo, sì giochiamo con i tre dietro eccetera, ma tanto conta l'atteggiamento, così. È il modo di giocare, non è tanto il sistema, è il modo di proporsi e giocare. Abbiamo giocato meglio tecnicamente, abbiamo dato più pressione, c'è stato più lavoro da parte di tutti e più movimento da parte di tutti, abbiamo sbagliato molto meno tecnicamente. Dopo alla fine dico sempre che a calcio per giocare bene bisogna passarsi la palla tra quelli che hanno le maglie uguali, altrimenti diventa un problema. Domani rimarremo sempre con i tre dietro. Così Allegri, vi chiedo ragazzi un commento a Pardo e a Mondonico. Beh, Pardo. Ma sì, insomma, è stata una brutta partita quella con l'Inter. C'entra anche la forza dell'avversario, c'entra però probabilmente anche una brutta prestazione della Juve. Insomma, il calcio è anche delle volte sorprendente, nella partita secca soprattutto, e poi comunque l'Inter è cresciuto tanto. Quindi io penso che insomma Allegri abbia utilizzato quella sconfitta per ricompattare il gruppo, che vuol dire semplicemente dare una sveglia a tutti, e col Cagliari si è visto. Dico, tante volte dall'inizio della stagione Allegri aveva parlato di una squadra che non doveva rischiare di diventare presuntuosa, cioè il tema era nell'aria, e quindi mi pare che Juve-Cagliari abbia rappresentato un passo avanti da questo punto di vista dell'attenzione. Al di là di quello, Mondo, Allegri dice ma sì, posso far giocare tre dietro, quattro dietro, cinque davanti eccetera, conta l'atteggiamento con cui interpreti la partita, è corretto o è un paravento? Contano le qualità dei giocatori, e tu allenatore, a secondo della qualità dei giocatori che hai a disposizione, metti in campo il modulo che più questi ragazzi a disposizione riescono a capire. Cioè, se tu non hai più Higuain e metti Meli, è chiaro che devi fare in modo che Insigne, Caleone, Martens facciano un altro tipo di gioco rispetto a Higuain, e questo penso sia il lavoro dell'allenatore. Se pensiamo che ci sia un modulo che faccia vincere, o lo faremo tutti. Scommetti che se tutti fanno lo stesso modulo, difficilmente tutti riescono a vincere. Ma chiaro, certo. Allora ragazzi, schedina, adesso vi tocca. Abbiamo tergiversato, cazzeggiato, ci siamo dilungati su vari temi, e il momento più atteso dagli ascoltatori, eccolo qua: 800 24 00 24. In ordine alfabetico risponderanno Mondonico e Pardo, a cominciare dall'anticipo di domani. Palermo-Juventus. Palermo-Juventus 2. Palermo 0, Juventus 3. Quindi siamo lì. Ma anche il risultato? Pardo fa il fenomeno. Un po' il gradasso. Voleva fare un po' il gradasso. Ne abbiamo già parlato prima. Napoli-Chievo, partita molto delicata. Uno secco. Perché una grande squadra non perde mai. Non stecca, non è mai non due volte. Non vince mai in due partite. Napoli 3, Chievo 1. Ah, ma vai con i risultati dritti? Non ti vergogni? Ma sono facili, le prime due sono facili, dai. Va bene. 3-1. Torino-Roma di domenica all'ora di pranzo. Torino-Roma, il cuore mi dice 1, la logica mi dice 2, e perciò dirò pari. X. Esattamente. Torino 1, Roma 2. Andiamo avanti. Genoa-Pescara. Genoa-Pescara 1, ho visto la gara che ha fatto col Napoli. Tenti qui, Pier. Genoa-Pescara vince il Genoa 2-1. Vince il Genoa 2-1. Pardo continua con i risultati secchi, segnate ragazzi, e poi li rinfacciate tutti 1-1. Attenti qui, Inter-Bologna. Inter-Bologna 6-1. 6-1. Mondonico, allora, ha preso 5 gol dal Toro, No, tanto per così, è chiaro che Inter Bologna ha favorito l'Inter, un risultato pazzo 6-1, perché ci sono dei risultati che ti tengono sempre dentro nelle quote. Sì. Io prima scommettevo sempre il 4-2, così sino alla fine poteva essere un risultato, sì. Mai questo, vinto niente. Capito, Pardo, Mondonico ha già ricevuto delle telefonate da Bologna e da Bergamo, ma questo non è vero, diciamo. 3-0, Bergamo? vince l'Inter. Vince l'Inter. Perché da Bergamo? Perché Gasperini è in discussione. Allora andiamo subito su Crotone-Atalanta, Emiliano. Questa qui veramente è la chiave di volta e finisce pari. Finisce pari? Sì. Vince l'Atalanta a Bergamo, a Crotone, 1-2. A Pescara, Pardo, a Pescara, no Crotone. No, Atalanta. Sì, vabbè, scusa, hai ragione. Vince fuori casa, chiaro. Sì. Ovvio, a Pescara vince l'Atalanta in casa del Crotone sul neutro di Pescara. Se fosse stato a Crotone avrei cambiato il risultato. Quindi fattore campo, in questo caso incidente. Lazio-Empoli 1. Vince la Lazio 2-0. 2-0, Pardo continua con i risultati secchi. Molto bene. Se ne indovina uno, impazzisco. Guarda, tanto c'è Giorgio Drucke che li sta segnando tutti. E quindi non è che verba volant, però no, dobbiamo andare di corsa. Mi dicono va bene, andiamo avanti. Sassuolo Udinese, una partita molto delicata perché Sassuolo non è in un buon momento. Vince Sassuolo 2-1. Vince Sassuolo, domenica 20:45, questa è bella, Fiorentina-Milan. Vince la Fiorentina. X per Pardo. E infine lunedì si giocano Crotone-Atalanta e per chiudere Cagliari-Sampdoria, Emiliano. Cagliari-Sampdoria 1. Vince Cagliari 2-0. Vi saluto. È stato bellissimo. Ciao, è stato bellissimo. Grande mondo, grandissimo. Bellissimo. Grande, Pardo, se indovini un risultato ti pago un caffè. Uno. Se ne indovina due? Se ne indovina due, pane e salame. No, perché io ho fatto la lotteria all'oratorio. Sì. E ho vinto la lotteria, sai cos'erano? 5 caffè in un bar di rivolta. E perciò andiamo lì a berli. Meraviglioso. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao, vi saluto, vi abbraccio. Voi. Ciao, time out per la borsa, torniamo. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora cominciamo a parlare di molto altro, Due ruote, ciclismo, poi parleremo del moto mondiale che perde già nella prima giornata di prove Iannone, che per il dolore non ce la fa e non sarà in pista. Dunque domenica torneremo a parlare di calcio, celebreremo Paolo Rossi, insomma state con noi perché abbiamo un sacco di argomenti su cui voglio provocarvi ad intervenire. 800240024, Gennaro, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie della convocazione. Grazie a lei. Senti, io a parte che sono tu, tifoso del Napoli, va bene, questo è assodato. Volevo denunciare una grossa ingiustizia che nessuno ne parla, della grossa conflittualità che c'ha la società sportiva Calcio Juventus, oppure la Fiat, negli sponsor, nelle azioni che c'ha verso la Lega Calcio, il calcio, anche gli sponsor degli arbitri. Quindi cioè, sono tutti corrotti come dovrebbe Mughini. No, io non dico questo, io dico che questo è molto più pericoloso perché non ci passa la sudditanza che già avevano. Con questo si raddoppia la sudditanza, non per niente. Sono 5 anni che vincono gli scudetti, meritatamente o no, questo è a capo anche di questo fatto molto grave, perché secondo me questa grossa conflittualità è molto peggio di Calciopoli, di Moggiopoli, perché Cacciopoli e Mongiopoli era illegale, è stato mentre adesso è stato ci sono i poteri oscuri. Grazie Giorgino mio De Luca, che pazienza ce vo' certe volte. Ciao Piero Augusto Stagi. Ciao, buon pomeriggio, ciao Carlo. Come stai? Bene, tutto bene. Senti, abbiamo il padrone di casa del prossimo Giro d'Italia, cioè del via del prossimo Giro di casa, d'Italia, Fabio Aru, partirà praticamente dal suo garage. Sì. Ed salita, è, io credo, in salita, in certo, salita. Sulla rampa del suo garage, e io credo sia... Beh, un attestato di stima, di fiducia, di onore non casuale. Ciao Fabio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ciao. Sì, effettivamente è una notizia bellissima, insomma, per me e per tutta la mia regione, insomma, che il prossimo Giro d'Italia parta dalla Sardegna, anche perché ormai erano 10 anni che non partivamo dall'isola, e sicuramente sarà una bella emozione per me, bello spettacolo anche per tutti i miei corregionali, insomma, un evento così di caratura così grande che approda nella nostra terra, insomma, è sempre un bene per tutti. Senti, ti faccio una domanda, poi ti lascio a Stagi. Questo può essere anche un peso per te, è chiaro, manca molto tempo, è chiaro che i piani non si definiscono, i piani agonistici per la prossima stagione non si definiscono esattamente adesso, però può essere un ulteriore così aggravio di responsabilità il fatto che comunque parta da casa tua? Ma guarda, innanzitutto per me è una grande soddisfazione, spero in piccola parte di aver potuto contribuire a questo ritorno, anche perché non avevo mai nascosto, insomma, la volontà, insomma, il mio piacere per questo, che questo appuntamento potesse tornare in Sardegna. Adesso magari, insomma, ora che è sicuro che il Giro parta dalla Sardegna, magari il prossimo appuntamento che mi piacerebbe potesse tornare nell'isola sarebbe il Giro di Sardegna, che era una gara molto anche molto utile anche in preparazione della Tirreno Adriatico. Certo. Quindi chissà che la regione, insomma, dopo questo evento non riporti anche il Giro di Sardegna. Per me comunque sia la pressione non c'è, anzi è un grosso stimolo, una grossa soddisfazione. Capito Stagi? Ha ragione, perché è un grande ambasciatore per il ciclismo italiano e per una regione che sta facendo molto per rendere questa le sue strade sempre più ciclabili e pedalabili, perché ci sta investendo veramente molto proprio anche per il turismo, soprattutto per il turismo. Io però vorrei cogliere l'occasione proprio così in prospettiva, non per rovinare la giornata, ma il prossimo Giro d'Italia sarà un giro che partirà dalla Sardegna e con ogni probabilità poi approderà in Sicilia, diciamo, Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali vuol dire un compagno di anni, un compagno estremamente prezioso, come lui ha ribadito quest'anno più volte, perché gli ha dato tantissimi consigli, però dal 31-12 di quest'anno i consigli non arriveranno più, e il prossimo 5 maggio, quando partirà dal vero il Giro d'Italia, lui e Vincenzo saranno per la prima volta rivali. Ecco, come si attende questa sfida, come si sta preparando per questo primo contro tra due beniamini ciclistici italiani? Ma come dici tu, insomma, Piero, il giro comunque non è ancora stato presentato, però c'è questa probabilità che tocchi anche la Sicilia, che possa toccare anche la Sicilia, quindi sarebbe un giro ancora più bello, insomma, poi la 100ª edizione lo renderebbe un giro fantastico. Sicuramente io mi porterò dietro tutti questi 4 anni che ho passato insieme a Vincenzo, da cui ho imparato tantissimo. Dalla prossima stagione saremo avversari, e comunque sia la stima che c'è tra di noi non muterà, insomma. Logicamente in gara ognuno farà la sua corsa e insieme alla propria squadra, però rimane sempre un'amicizia e una stima reciproca. Questo secondo me è la cosa più importante. In gara è un conto, ma fuori dalla gara si resta sempre degli amici. Ragazzi, vi chiedo un'ultima cosa che non riguarda il Giro d'Italia, non riguarda le corse dell'anno prossimo, ma quelle che abbiamo visto ieri. Ho visto una volata pazzesca di Sagan ieri all'Enco Tour, una cosa all'ultimo sangue anche molto rischiosa, pericolosa. Non so se l'avete vista, credo di sì, vi chiedo un commento. Chi l'ha vista? Si parte, parto io? Parti tu Pier. Guarda, è stata una volata incredibile, perché era rimasto imbottigliato, sì. Eppure lui in 100 metri... Una botta di qua, una botta di là. È riuscito a sverniciare, a battere uno come Greipel. Io credo che al Mondiale sarà un osso duro, perché è un corridore, in questo momento forse è il corridore più completo, più forte, sì, spettacolare. Per usare un linguaggio calcistico o comunque universale dello sport, ha una grandezza, Peter Sagan, pari a quella di Cristiano Ronaldo, di Messi o di Valentino Rossi. Che nomi grossi! E beh, se si devono fare dei paragoni, usiamo dei nomi grossi. Peter Sagan è tanta roba, io credo. No, ma poi si è consacrato in questa stagione. La parola. No, c'è anche quella, sto scherzando naturalmente. No, corridore pazzesco, ieri ha fatto questa volata incredibile, è stato l'anno della sua consacrazione. Non so se Fabio Aru condivide i paragoni di Pier Augusto Stagi con i grandi del calcio. Ma io condivido quello che ha detto Pier, anche perché insomma ho avuto modo di conoscere Peter. Un campione in bici, anche fuori dalla bici, è un grande personaggio, quindi credo che serve un po' anche al ciclismo. Sicuramente questa è stata una stagione stupenda per lui e si sta togliendo tante soddisfazioni. Penso che possa essere anche un osso duro per i prossimi mondiali di Doha in Qatar. Sicuramente si terrebbe a tenere la maglia ridata. Secondo me non ci andrà tanto lontano. No, secondo me è forse il grande favorito, e sono d'accordo con tutti e due che saluto. Grazie Pier Augusto e grazie Fabio Aru. Ci sentiamo prestissimo. Ciao Fabio. Ciao ragazzi. Ciao Pier. Ciao. Ci fermiamo per il traffico. Carlo da Salerno è già in linea. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo qui. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Dica. Allora, premetto, sono un tifoso del Napoli da 66 anni appena, ne ho 70, ma sono soprattutto un amante del calcio. Fatta questa premessa, devo esprimere un rammarico e una affermazione. Il rammarico riguarda Mondonico, non so se mi ascolta ancora. Io lo ricordo come buon giocatore di calcio, lo ricordo meno bene come allenatore, perché una volta ci accompagnò tristemente in Serie B e ogni domenica perdevamo regolarmente, mi diceva non era questa la partita che dovevamo vincere. E io sto ancora aspettando quello che avremmo vinto. Va bene, lo chiederemo a lui e faremo un confronto diretto. Sì, no, ma tutti gli vogliamo bene. Poi lei sa meglio di me come le stagioni degli allenatori certe volte escono bene, altre meno bene. Sì, no, ma a parte quello era un Napoli scadente di suo. Ma gli voglio bene perché lui rappresenta un calcio che non esiste più, al quale io sono molto legato. Forse del calcio di oggi non mi sarei mai innamorato. Infatti, qui c'è però l'affermazione. Io avrei avuto piacere che giornalisti così bravi e autorevoli come siete voi, lo dico senza piaggeria, avessero espresso il loro rammarico per come arbitraggi come quelli di D'Amato contribuiscono a rovinare la credibilità del calcio. Ma guardi, io sto con De Laurentiis e con le frasi che ha detto in questa diatriba di inizio stagione, in questo primo dossier stagionale, sto con le frasi di De Laurentiis. Può cominciare ad essere pericoloso per il Napoli andarsi a cercare dei paravento di qua e di là, e alla prima partita con episodi contrari cominciare ad alzare i vessilli. Io sto con De Laurentiis da questo punto di vista, poi saremo anche in minoranza e Giuseppe, che chiama pure dalla provincia di Salerno, la penserà al contrario, giusto? Pronto, dica. Niente, io la penso proprio al contrario, guardi. Va bene, non c'è problema. Voglio capire una cosa, perché in Italia non si possono fare le inviti, perché si dice che c'è la corruzione per le tangenti. L'altra settimana è uscito un dossier da Osservatore Internazionale che l'Italia è uno dei paesi più corrotti al mondo. Però la classe arbitrale è incorruttibile. Questo mi manda al manicomio a me. C'è una corruzione a tutti i livelli, ma gli arbitri ci dobbiamo sempre fidare dell'arbitro. Io a questo punto non mi fido più dell'arbitro. Vabbè, non fidiamoci più. Al prossimo episodio favorevole al Napoli non ci fideremo più neanche di quello. Poi li conteremo, anche se non è il mio sport preferito contare gli episodi favorevoli o contrari a questa o quella squadra. Io, ripeto, in questo accenno di polemica sto con De Laurentiis. Adesso ci fermiamo, cioè non è che ci fermiamo, vi faccio sentire un estratto dell'intervista di Paolo Rossi, cui facciamo un milione di auguri, oggi compie 60 anni, Dario Ricci lo ha lungamente intervistato, lo sentiremo in Olimpia, poi torniamo per parlare di motomondiale, per parlare di Olimpiadi negate, per tornare a parlare di calcio. Ragazzi, a dopo, Paolo Rossi con Dario Ricci. Chiama in avanti Cabrini. Rossi! Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0, ha segnato Rossi. L'inizio di quel mondiale è stato davvero difficile, proprio perché arrivavo da 2 anni di stop, senza aver mai giocato partite vere, ho fatto molta fatica a riprendere proprio da un punto di vista mentale, di testa, non tanto fisicamente quanto proprio di testa, rientrare nelle partite vere, e fortuna ha voluto che proprio nel momento clou della partita forse più importante della mia carriera, insomma, qualcuno lassù mi ama davvero, perché sono passato da una situazione di disastrosa a diventare nell'arco di poco tempo uno dei dei giocatori più conosciuti al mondo, quindi capocannoniere, vittoria al mondiale, questo nell'arco di 15 giorni. E dà davvero dell'incredibile, questo forse per la perseveranza, senza forse, soprattutto per la perseveranza, la testardaggine di Berzot, senza di lui davvero non ci sarei arrivato a vincere un mondiale. Ma un tecnico come Berzot, secondo lei, troverebbe ancora spazio nel calcio di oggi? Ma Berzot è stato uno dei più grandi allenatori che abbiamo avuto in Italia, era un tecnico davvero straordinario, una persona rigorosa, tutto d'un pezzo, era un friulano di quelli molto duri anche, era uno che il calcio lui lo amava sotto tutti i profili, era un tecnico che spiegava sapientemente le partite, era una persona davvero di cuore, pronto a difenderti sempre in qualsiasi modo, lui ha voluto bene a tutti i suoi giocatori indistintamente. E insomma, la sua carriera di allenatore nazionale dimostra senza alcun dubbio la sua bravura. E lei si rivede in qualcuno dei giocatori di oggi? Ma onestamente no, in quelli di adesso no, non mi sembra ci sia uno con le mie caratteristiche. A me è sempre piaciuto Pepito Rossi, mi piaceva da ragazzino, l'avevo visto giocare le prime volte a Parma e mi ero detto: caspita, che bravo questo ragazzo, veramente ha delle grandi qualità, farà una grande carriera. Poi l'ha fatta in parte perché è stato, devo dire, ha avuto sfortuna, ha avuto un sacco di infortuni anche estremamente seri che ne hanno un po' pregiudicato la carriera, però aveva tutto per diventare un grande calciatore, spero che oggi sia recuperato perché aveva caratteristiche abbastanza simili alle mie. Tutti convocati. Questo si fa fatica, ragazzi. Convocati. Nel 2015 secondo me ho fatto la mia gara migliore, dove sono stato veloce e competitivo per tutta la gara e dopo aver sofferto un po' nelle prove, però bisogna riniziare da lì, ecco, bisogna cercare di lavorare duro, ma di lavorare bene, perché è una pista comunque difficile ed è una pista soprattutto dove i piloti spagnoli danno qualcosa in più. Sia Lorenzo che Marquez, ma anche Pedrosa e anche tutti gli altri sono molto molto veloci, quindi sarà difficile arrivargli davanti. È una la pista che mi piace più che Misano, per esempio. Mi piace tantissimo. Normalmente vado forte, ma comunque se guardi un po' tutte le domeniche qui a MotoGP, i risultati non sono stati molto buoni, ma sì che sono contento di arrivare qua in questa situazione. Dai, proviamo di gestirlo bene e proviamo di fare un bel weekend. La gomma sono fondamentale, no? Dobbiamo capire già da domani se le gomme funzionano tanto davanti come dietro. Dopo il circuito, storicamente non un circuito molto Yamaha, però negli ultimi due anni abbiamo avuto l'opportunità di vincere la gara, allora arriviamo qua con la mentalità giusta per provare di vincere la gara la domenica. Exit poll dal circuito di Aragon. La notizia di oggi è che Iannone è costretto al forfait, non posso rischiare oltre, non correrà, ci ha provato, si è fatto massaggiare, si è fatto fasciare, ha provato a scendere in pista, però alla fine si è arreso. Sentiamo direttamente anche lui, poi ne parliamo. È una pista particolare, molto di percorrenza, si usa tanto l'angolo, però quest'anno ogni gara, finché non vai in pista, non riesci a renderti conto quanto puoi essere competitivo, perché le gomme condizionano molto la prestazione e ti fai una previsione che la maggior parte delle volte non è quella. Anche perché comunque le gomme cambiano spesso, quindi a volte si lavorano bene con la tua moto e a volte no, quindi aspetteremo domani. E adesso la nostra voice del motomondiale, Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Gran premio cruciale questo. Intanto leggevo su Repubblica un interessante articolo, l'avrei letto anche tu: gli otto vincitori della MotoGP quando l'equilibrio diventa business, perché sappiamo come la morte dello sport siano le dinastie, soprattutto se lunghe e se intangibili. Invece il grande business sta nel Lorenzo, Miller, Rossi, Marquez, Iannone, Crutchlow, Vinales e Pedrosa che vincono le ultime otto corse. Tant'è che la battuta di oggi, Carlo, è stata: potrebbe vincere anche Hayden. Sai che Hayden, passato in Superbike, è stato prestato qua come wild card. Sì. E visto che l'andamento è quello, chissà che il nono vincitore, poi lo si è detto come battuta, impossibile che Hayden venga qua e vinca. Però è vero, hai ragione ad osservarlo, in questa pista che è una pista onda, si è rivelata veramente una pista onda, perché le prime tre moto sono rispettivamente quelle di Pedrosa, Marquez e Crutchlow. Valentino quarto in queste FP2, sono appena concluse, poi Espargaró, Vinales, Lorenzo solo settimo e Petrucci nono, Dovizioso decimo, Pirro che ha sostituito, come hai già detto, Iannone quindicesimo. È una gara un po' così questa, tutti aspettano poi di andare in Asia dove ci sarà il gran finale, tutto si giocherà lì. Abbiamo sentito Lorenzo dire che era una pista Yamaha, ma in realtà nella resa dei fatti è invece una pista Honda, dove quella moto riesce a fare la differenza. Tra Valentino e Lorenzo, scintille. Appunto, Lorenzo ha anche alzato la voce. Sì, zero giochi di squadra dichiarati, a parte che Lorenzo guarda Ducati, ormai guarda dov'è, com'è messa, è proiettato da là. Si dice che dalla prossima gara potrebbe veramente cambiare qualcosa all'interno del team. Se fino adesso lui l'ha sempre detto, la mia moto è uguale, il mio trattamento è identico a prima, non è perché io vado via, tratto in un modo diverso, invece si pensa che dalla prossima il finale fatto tutto di là sarà diverso. Valentino comunque è lì. Nell'FP1 è andato bene perché era secondo dietro Marquez, invece Pedrosa da più lontano, e poi si è riuscito ad avvicinare. Lorenzo stamattina ha provato delle gomme deteriorate, a momenti si spende, e comunque sono davvero scintille tra Lorenzo e Valentino, è una cosa pazzesca. Hai la sensazione che questo possa essere uno di quei famosi gran premi crocevia della stagione, di quei famosi incroci che noi motociclisti conosciamo, in cui devi dare la precedenza oppure rischiare? Allora, sentendo le dichiarazioni mi ha stupito Marquez, perché ha fatto veramente il ragioniere delle dichiarazioni, però poi sai che in gara è tutta un'altra cosa. Comunque lo avevamo detto, il campionato non si è chiuso, perché 43 punti con le gare che rimangono sono ancora recuperabili, e tutto dipende dalla stabilità mentale di Marquez, del piccolino di statura, ovviamente non di manetta. Cioè è lui che secondo me farà i giochi, se si accontenterà sarà molto più dura per Valentino. Vediamo cosa tirerà fuori dal cilindro Valentino, perché col sorpasso di Lorenzo abbiamo visto che è capace di tutto. Tra l'altro lì ancora polemiche, è stata chiamata in causa la Yamaha stessa, che ha giudicato pulitissimo il sorpasso, ma Lorenzo ribadisce: io sono ancora più convinto dopo aver visto le immagini alla TV. Valentino si è inventato quella traiettoria, non è un passaggio normale. Se io non mi fossi rialzato saremmo andati in terra, io perlomeno, e forse anche tutte e due. E Meteo, forse è prevista qualcosa di pioggia domattina, ma è garantito il bel tempo per tutta la giornata di domenica. E secondo me sì, è vero che di là si deciderà tutto, però qua può succedere qualche cosa che poi farà la differenza. Un'ultima cosa, Roberto, se tu fossi Rossi, vista la superiorità dichiarata, almeno dimostrata in questa prima giornata di prove della Honda, proveresti a correre in difesa o subito con i denti sul collo delle due Honda? Noi diciamo a vita persa. Lui sa che non ha un aiutante, perché Lorenzo farà di tutto per non aiutarlo, anzi ostacolarlo. A questo punto Lorenzo preferisce che vinca Marquez piuttosto che lui, figurati, uno spagnolo che è tutto dire, già visto e già sentito. Esatto, sì. Non può permettersi di star lì a studiare, fare. Secondo me deve andare veramente a vita persa e deve giocarsi la sorpresa, il passaggio inaspettato, la linea, la traiettoria improvvisa e spiazzare. Deve giocare sulla psiche di Marquez. Questo è l'unico, secondo me, jolly che ha da giocare nel matto Valentino, perché altrimenti se Marquez fa sempre podio, alla fine se lo vince lui. Quindi deve stare davanti, non può scendere dal podio, deve fare colpaccio e soprattutto inventarsi qualche cosa. Purtroppo Lorenzo non lo aiuterà, qua non c'è neanche Iannone che può aiutarlo, perché sai che nella mischia Iannone, certo, è uno che può sparire le carte. Esatto, e invece purtroppo non c'è neanche lui. Pirro non potrà esistere in gara. Dovizioso sappiamo com'è, è comunque una Ducati, cioè Valentino non ha alleati, se lo deve conquistare tutto da solo questo decimo titolo, ed è molto molto difficile, però come ha ammesso lui stesso, finché la matematica me lo consentirà io sarò lì a provarci, e questa è la miglior cosa che può dire uno come Valentino. Grazie Roberto. Ciao. Buona corsa, buon weekend, ci vediamo lunedì. Grazie Roberto. Ciao. Ungaro, The Voice. Ciao. Del Moto Mondiale di Radio 24, 800 24 00 24, per le vostre parole, 349 238 6666, per i vostri scritti WhatsApp o SMS. Informazione di servizio, WhatsApp funziona grazie a Alessandro Fortunati. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Ho una domanda e un paio di considerazioni, sarò più conciso possibile. Dica. E la domanda è questa: ma Lorenzo in Ducati il prossimo anno, per chi ti fa rosso anche sulle due ruote, c'è qualche speranza di qualche soddisfazione, la moto in evoluzione? Perché credo che il pilota sia quello giusto. La moto è lì da vedere, rimane... Andrea, la moto è lì da vedere, da sentire, esatto. È diventata una, grazie alla matita e all'ingegno di Dell'Igna, è diventata una moto competitiva, ma questo Lorenzo lo sa perfettamente. E le due considerazioni, cerco di essere veloce, la prima è che io condivido appieno quello che ha detto Allegri in conferenza stampa, nel senso che non credo che fosse solo l'assenza di alcuni giocatori nella partita con l'Inter, ma proprio io ho visto tutta la partita in televisione, non allo stadio, però ho avuto la sensazione che la squadra, non lo so, non ci fosse con la testa a San Siro, o forse sono scesi in campo già pensando di aver vinto, ma... e ho visto anche un Inter diversa rispetto a tutte le altre partite, sinceramente, quindi probabilmente queste due cose messe insieme hanno portato a un risultato che è giusto sul campo, è stato giustissimo. E l'altra considerazione, secondo me, si continua ad ascoltare, insomma, i piagnoni di Napoli, tifosi del Napoli preciso, che ancora, insomma, finché non si rendono conto che la Juve in questi ultimi 5 anni è stata la squadra superiore in Italia, non faranno molta strada. E secondo me non si rendono neanche conto di avere un buon allenatore, che Agnone un po' come loro l'ha dimostrato, ma che comunque fa giocare bene la squadra e mette in condizioni tutti gli uomini offensivi di andare in rete. E secondo me quest'anno non è che sia molto più debole dello scorso anno, anzi no, è forte il Napoli, secondo me è chiaro, ha perso il principe del gol, però il Napoli è una squadra nel complesso più completa rispetto all'anno passato. Poi vediamo quando cominceranno a giocare quei giocatori che fino adesso sono rimasti a guardare per ragioni diverse. Io vorrei solo chiudere questa, cioè, questa diatriba sul fatto che, insomma, la storia della Juve, dei conflitti di interesse, ho ascoltato, cioè, sembra di leggere, no, quei post su Facebook sulle scie chimiche. Ecco, io credo delle volte credo veramente di vedere una realtà, ovviamente c'è molta soggettività, no, nel leggere la realtà, però ecco, veramente, cioè, stiamo veramente un po' delirando in alcuni aspetti. Ognuno ha i suoi pensieri ed è giusto che se li tenga, buoni o cattivi che siano, puliti o perversi che siano. Io lo ripeto, al momento in questa microdiatriba che non credo vada sopravvalutata, sto dalla parte di Aurelio De Laurentiis, che ha detto: ragazzi, giochiamo e poi agli arbitri ci penseremo. E in questo ha fatto benissimo, ma perché non è il caso, dopo un pugno di partite di campionato, di cominciare a crearsi e a costruirsi degli alibi. Questo vale per il Napoli, ma vale per tutte quelle che protestano o protesteranno. La Juventus sul campo è la squadra da battere, è chiaramente una grande potenza calcistica, politica ed economica, tutto quello che volete, però crearsi degli alibi dopo solo l'avvio di campionato, secondo me, è rischioso, pericoloso e deleterio. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti a lei per la pacatezza e l'equilibrio. Grazie. Senta, allora, io volevo solo proseguire su quello che stava dicendo lei adesso, nel senso che i tifosi del Napoli dovrebbero guardarsi un po' indietro e intorno, perché quando venne il Napoli a San Siro un paio di anni fa, un rigore fuori area per il Napoli con espulsione e un gol in fuori gioco, nessuno diceva niente. Da allora gli andava bene, era tutto a posto, ma in quel momento. Poi contiamo gli episodi, andava bene, la volta dopo non va bene, poi c'è momento e momento, e poi c'è chi dice che quando serve alla Juventus l'aiutino non viene negato. Ci sono un sacco di teorie, Enrico. Io ripeto, voglio attenermi in questo caso, visto che siamo soltanto all'inizio e che il tempo dei dossier per fortuna non è ancora cominciato, vorrei attenermi alla fredda cronaca, e cioè ai lamenti di Sarri e alla risposta, secondo me, molto lucida di De Laurentiis. Tutto qua. Ha detto benissimo De Laurentiis, anche se di tutti i napoletani è quello che mi sta meno simpatico, ma è quello che aveva parlato nella maniera più giusta. E poi vorrei dire solo una cosa a Mondonico, che è bravo, simpatico, di un altro calcio, ma un piccolo scusa ai tifosi dell'Inter, non ci stava male oggi. Perché? Perché è stato cattivello l'altro giorno con l'Inter. Ha fatto il suo pronostico e l'ha sbagliato. Non è una storia di pronostico. Perché si fa pronostico e si chiede scusa? Ha parlato proprio per secondo me, dando per scontato cose che non erano scontate assolutamente. Facciamo così, le scuse a Mondonico le rimandiamo. Le scuse a Mondonico le rimandiamo e le farà lui se ne avrà voglia. Secondo me, scusatio non petite in questo caso, perché ha fatto un pronostico, l'Inter non lo convince ancora del tutto e, insomma, credo che l'Inter abbia un eccellente organico lì magari per smentirlo. Io vorrei chiudere parlando dell'Olimpiade, che a Roma non ci sarà. Dal primo giorno ho sempre sostenuto che questa strada non è una strada giusta, perché secondo me non è corretto, non è elegante, e tra le altre cose credo che, così come noi abbiamo acquisito in questi 3 anni che stiamo sostenendo la candidatura negli angoli del mondo, con molta credibilità, per quello che è il Comitato Olimpio, per quello che è stato lo sport italiano, per quello che siamo oggi, perderemo questa credibilità. È una cosa, in inglese si dice unfair, cioè una cosa proprio non da fare. Questo era il presidente De Coni, che così ha parlato ieri, poi ha parlato ancora oggi, chiaramente deluso dopo quel baciamano galante ma un po' fasullo al sindaco di Roma. E lo stesso Malagò ha detto: adesso per 20 anni non mi parlate più di candidature per grandi eventi. Antonio Rossi, uno dei campionissimi della storia del nostro sport. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a Ciao. Tutti. Leggimi questa vicenda. Ma guarda, secondo me quello che è piaciuto ancora meno è come è stato trattato il numero uno del sport italiano, proprio al ritorno da Rio, dove insomma, l'Italia ha fatto un'ottima figura, sia per le Olimpiadi che per le Olimpiadi. Io penso che lo sport doveva avere un trattamento migliore, ma così è come era stato ai tempi di Monti, che gli aveva detto proprio all'ultimo secondo di rinunciare a Roma 2020. Secondo me il presidente Malangò ha fatto un ottimo lavoro in questi anni per la candidatura, avevamo buone chance e spero che parli un po' per la delusione adesso di Roma 2024, insomma, se dovesse vincere Los Angeles nel 2028 io sono lombardo, siamo pronti, cioè pronti no, però potremmo fare qualcosa, ma proprio perché dobbiamo costruire degli impianti che ci servono, allora prendiamo come obiettivo l'Olimpiadi per poterli costruire. Sì, secondo te questo no, questo diniego, questa porta sbattuta in faccia in maniera anche abbastanza volgare, ha ragioni soltanto politiche, ha ragioni sportive, ha ragioni economiche, ha ragioni di insomma della certezza o del timore di non potercela fare? Ma guarda, ragioni soprattutto politiche, penso, perché è stato sbagliato secondo me all'inizio impostare una campagna elettorale proprio sui giochi olimpici, quindi vincendo a raggi poi per la sindaca sarebbe stato difficile tornare indietro. Secondo me l'errore è stato proprio quello. Poi per ragioni economiche, ovviamente lo sappiamo tutti che i giochi costano tanto, però a questo punto la sindaca non poteva dire di no, perché il CONI ci metteva dei soldi, il CIO ci metteva dei soldi, il governo aveva garantito che la copertura finanziaria la metteva lo Stato e non il Comune, quindi insomma il Comune di Roma avrebbe solo che guadagnato, avrebbe solo guadagnato dall'organizzare i giochi, avrebbero pagati un po' tutti gli italiani, ma non solamente i romani. Sì, no, questa è un'obiezione che viene rivolta da molti, no? Ma come facciamo i giochi, dobbiamo pagarli noi? In un momento difficile come questo è una domanda, mi permette anche legittima. Però doveva dire di no il governo, non il comune, perché aveva tutti gli interessi. Quindi questione meramente politica, meramente interna, meramente comunale. Certo è che dopo un'Olimpiade in cui siamo andati bene, in cui abbiamo fatto un'eccellente figura, insomma, questa il trattamento è stato bravo, esatto, il modo, sulla sostanza possiamo discutere lungamente, esatto, quanto ti pare, il modo è stato veramente sbagliato, inelegante, tutto quello che vuoi. Grazie Antonio, grazie, ci sentiamo presto. Ciao. Grazie, assessore ciao. Allo sport e politiche per i giovani della Regione Lombardia, vi ricordo Antonio Rossi, che ha anche una carica istituzionale oltre ad essere un enorme campione, un monumento del nostro sport. Stanno per scorrere i titoli di coda su tutti i convocati di oggi. Comincio già a ringraziare Giorgio De Luca, nostro autore, Alvise Falzoni in redazione, Roberta Frisani in regia. Comincio già a darvi appuntamento a tutti i convocati weekend con Giovanni Capuano dalle 17 alle 19 di domenica. Comincio già a darvi appuntamento per la prossima settimana di tutti i convocati, ovviamente dalle 14. Vi aspettiamo per parlare sempre di sport in un modo o nell'altro. Amici napoletani, non vi arrabbiate, non aprite i dossier, che al momento non è il caso. Provate al momento a dare retta a De Laurentiis, che ha secondo me in maniera legittima bacchettato il suo allenatore per questa polemica, però adesso tanto non abbiamo più tempo per aprire i microfoni. C'è Antonio da Verbania? Non ce la facciamo Antonio, non ce la facciamo a parlare, ma lo faremo insomma domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, tutte le volte che volete, tranne il sabato. State a casa a riposare, nessuno è convocato. Ciao ragazzi.